Domenica 27 settembre a San Lazzaro di Savena in piazza Bracci all'interno di Contadini Bio in piazza, questa iniziativa di Campi Aperti, in particolare dei contadini biologici delle valle del Savena e dell'Idice, si terrà una tavola rotonda intitolata I tanti volti dell'agricoltura bio, un confronto tra biocontadino e industriale. Per parlarne siamo al telefono con Pierpaolo Lanzarini, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora Pierpaolo, già dal titolo si capisce che c'è biologico e biologico. Beh sì, c'è biologico e biologico, infatti vorremmo puntare l'attenzione proprio su questo, sul fatto che quando si dice biologico è un po' generico e in realtà ci sono diversi modi di intendere il biologico e che questi hanno degli effetti diversi sia sul sistema economico che sul sistema, diciamo, ambientale. Ecco, mi pare di capire quindi che la filiera produttiva in cui finiscono condiziona anche il metodo di produzione. Diciamo che la filiera del biologico industriale soffre, diciamo, a parte l'uso di sostanze di origine naturale al posto di quelle di chimica di sintesi, dei mali dell'agricoltura intensiva sostanzialmente, in molti casi è un'agricoltura che punta alla standardizzazione del prodotto, che punta alla specializzazione delle produzioni, che punta ai grandi quantitativi, eccetera. Quindi diciamo che è un po' meno attenta a quello che succede al contesto, ai metodi di produzione, all'approccio alla terra e all'economia che viene generata. Ecco, appunto, nella tavola rotonda ci sarà l'occasione proprio per confrontare invece, appunto, come già si capisce dal titolo, l'agricoltura industriale, l'agroindustria, con invece l'agricoltura contadina, che è quella che da sempre contraddistingue Campi Aperti. Chi interverrà, come si svolgerà il confronto? Si svolgerà un confronto, diciamo così, tra accademici rappresentati da Giovanni Bazzocchi, che è un agroecologo che lavora in università a Bologna, delle esperienze più concrete come quella di Campi Aperti, che appunto verrà rappresentato da Elena Hogan, che è la nostra presidente. Si cercherà appunto di affrontare questo tema delle diverse interpretazioni del biologico, che credo che sia un modo un po' per fare un po' di chiarezza anche su che proposta fa Campi Aperti, su che cosa significa sostenere un certo modello che evita di passare attraverso la grande distribuzione, proprio per schivare le trappole che questa rappresenta. Ecco, uno dei grandi temi attorno al biologico è anche quello della certificazione. Affronterete anche questo tema? Ma io immagino di sì. Noi da anni cerchiamo di far capire che ci sono diversi modelli di certificazione, quella standard, diciamo, affidata ad enti terzi, agenzie specializzate, che è chiaro che non si può, come dire, al momento evitare, perché a parte che è quella istituzionalmente scelta dal nostro paese, è anche, diciamo, che nelle lunghe filiere che poi portano alla grande distribuzione in qualche maniera si è obbligati a passare attraverso enti terzi. Nel nostro caso, quindi, come contadini che poi portano al mercato i propri prodotti e solo quelli, possiamo passare attraverso altre forme di certificazione, che sono appunto quelle basate su delle forme di garanzia partecipata, e che è un po' il modello che stiamo applicando ormai da diversi anni, che è un work in progress in cui aggiustiamo progressivamente, diciamo, le cose che secondo noi sono da aggiustare, perché vediamo che intaccano su alcuni aspetti, ma che di fatto ha portato ormai a un modello nel quale ci si può ciecamente fidare di chi ha il mercato, ciecamente, insomma, in cui la fiducia è basata su una conoscenza approfondita, reciproca, che parte dai produttori, ma anche da chi frequenta il mercato per fare semplicemente la spesa. E allora io ricordo l'appuntamento: domenica 27 settembre la giornata si svolge dalle 10 alle 20 in piazza Bracci a San Lazzaro di Savena, mentre la tavola rotonda di cui stiamo parlando si svolge alle 15. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti quelli che interverranno a questa festa.